Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Un format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Cronaca ci impone di dedicare questa puntata a Camilla, la border collie di 8 anni, attiva nel nucleo operativo cinofilo della regione Liguria, morta il 1 giugno dopo un incidente sul lavoro. I cani delle unità cinofile dei pompieri lavorano in prima linea nella ricerca dei dispersi in ambienti impervi e sotto le macerie. D'altra parte vengono selezionati e addestrati proprio per questo, per la loro agilità, la loro destrezza e la loro, diciamolo, subordinazione. Sono cani che vivono vite movimentate, probabilmente per alcuni aspetti anche divertenti, se paragonate alle vite noiose di quei cani che languono nei terrazzi o nei giardini dove ogni giorno è uguale. Tuttavia, è lecito chiedersi se sia giusto selezionare e addestrare altri animali per il lavoro, cioè per svolgere mansioni che non scelgono e che siamo noi umani a volergli assegnare. Pensiamo al ruolo dei cavalli nei trasporti e nelle guerre, pensiamo ai buoi nell'agricoltura, ai muli per i trasporti pesanti, i cani per la caccia, l'accompagnamento di persone non vedenti, ma anche i canarini usati nelle miniere per testare eventuali fughe di gas. Delicatissimo è poi il discorso della pet therapy. È una domanda che poniamo a chi ci ascolta. Pensiamo che sia giusto? E dal momento che gli altri animali non possono scegliere, non ci sembra che in qualche modo questi addestramenti somiglino a lavori forzati? In onore di Camilla, la piccola cagnetta pompiera, questa puntata di Restiamo Animali sarà una puntata monografica tutta dedicata ai cani. Fiera del consumo critico fa la cosa giusta che si è svolta a Milano nel marzo scorso, abbiamo incontrato l'associazione di Varese BIOS, un'associazione nata nell'ambiente cinofilo, fondata da educatori cinofili e pet therapist, attorno a una proposta rivoluzionaria, cioè l'alternativa ai canili, ovvero l'istituzione di veri e propri villaggi aperti per randagi a gestione libera, abolendo definitivamente le gabbie. Sentiamo il servizio della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. Lo stand di Bios Varese in compagnia di Rosy Mussari, vicepresidente dell'associazione Bios Varese. Voi vi chiamate Bios Varese ma alternativa ai canili, esatto. Quindi ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Noi siamo un gruppo di educatori cinofili e pet therapist che stanno portando avanti da diversi anni questa promozione di un concetto diverso di canile, perché i canili così come sono strutturati sono una forma di maltrattamento. Il cane ha bisogno di vivere in spazi aperti nel rispetto della sua etologia. E noi proponiamo appunto il villaggio per randagi, che è una struttura che finalmente possa accogliere veramente i cani più sfortunati in un contesto più civile, più idoneo appunto alla loro natura, e dove il cittadino si può recare senza un peso di angoscia nel cuore, ma con la gioia di andare a conoscere il cane che adotterà. Il nostro comune ci ha proposto un'area molto bella a Varese, dove noi vogliamo appunto fare il primo modello da poter poi proporre a livello nazionale. Secondo te questo tipo di progetto si potrebbe applicare anche al sud? Potrebbe essere una soluzione? La Lombardia non ha problemi di randagismo, ha problemi di abbandoni, che è diverso. Invece nel sud Italia c'è ancora un problema legato al randagismo, legato al fatto che comunque il numero dei cani è diventato anche un business. Che noi come associazione siamo contrari alle staffette, perché vorremmo che le associazioni del sud Italia cambiassero rotta. Chiediamo a queste associazioni che facciano un percorso formativo, perché purtroppo, ahimè, proprio il volontario sì, agisce col cuore, ma non basta purtroppo. Associazioni non sono d'accordo al nostro progetto, ma per il semplice motivo che non hanno la competenza di gestire dei cani liberi, perché i cani in gabbia li possono gestire tutti, tanto è vero che c'è un numero pazzesco di canili dei privati. Avere un cane chiuso in gabbia è molto semplice, è molto più difficile gestire un cane in gruppo, in branco. Invece a livello di costi salgono a realizzare una realtà di questo tipo rispetto a un canile classico? Ma secondo me no, perché ipotizziamo un canile con un numero, non so, di 150-200 cani, pensate il numero di box che andrebbero fatti e il costo. Invece in questo caso si ottimizza, per esempio noi abbiamo fatto un progetto, perché non abbiamo tanti cani da noi, che potrebbe accogliere 50-70 cani, dove in uno spazio di 800-1000 metri ci possono stare anche 6 cani. Potrebbe bastare una casetta con più posti, senza fare un box per ogni cane. La nostra idea è quella di fare un progetto che sia a bassissimo impatto ambientale, deve essere una struttura il più possibile green, quindi meno ferro, meno cemento possibile. Sicuramente è un investimento non indifferente questo del nostro progetto, perché l'area interessata è ampia, è un'area qui di 17.000 metri quadri, e noi vorremmo proprio fare un posto dove c'è anche una sala conferenze, una biblioteca con libri di tematica animalista, proprio un posto dove il cittadino voglia andare e trovare tutto. Abbiamo una pagina Facebook che si chiama Alternativa ai Canili Bios Informa, e in più diciamo ai cittadini, se il vostro comune interessa che il nostro servizio, no, la comunità di informazione, noi ci spostiamo senza problemi. Star, every inch of Simona è sempre stata sensibile al linguaggio, all'uso delle parole che si riferiscono agli animali, quasi sempre per esprimere violenza, degrado e oppressione. Pensiamo a terminologie come ammazzato come un cane, trattati come bestie, sgozzato come un maiale, schiacciati come topi o carne da macello. Sono espressioni utilizzate per azioni barbare e per operazioni disdicevoli che in realtà vengono sempre commesse da sedicenti esseri umani. Confrontandoci con il linguaggio a volte si fanno delle scoperte interessanti, come ad esempio il fatto che in albanese c'è un modo per esprimere la morte di un umano e un altro per descrivere la morte di un animale. Sentiamo la testimonianza di Arian Kjupi. Mi chiamo Arian, vengo dall'Albania e sono in Italia da circa 26 anni. Sono un amante di animali e soprattutto dei gatti. Ho avuto sempre gatti nella mia vita, ma negli ultimi anni ne ho avuti due gatti neri, una femmina che si chiama Minù e un maschio che l'ho trovato per caso a Pescia. L'ho caricato in macchina e l'ho chiamato Izmir. È stato un gatto molto attaccato a me, fortunato lui, perché questo gatto dopo qualche mese ho scoperto che era malato della leucemia felina. L'anno scorso sono stato costretto a portare dal veterinario a farlo sopprimere, insomma, perché non c'era più speranza. Abbiamo sofferto tutti, io, mia moglie e le bambine, gli abbiamo fatto un funerale come una persona in giardino. In Albania si usano due verbi diversi. Quando muore un animale si dice ngordi, quando muore una persona si dice vtiqe. Quando mi morì questo gatto ho avuto una telefonata con un amico che mi ha chiesto come stavano i gatti e l'ho detto alla femmina bene, e invece il maschio è morto. È usato il verbo che si usa per le persone. E dall'altra parte ho sentito una risata ed è quello che mi ha fatto ancora più male, perché per me era morta una persona, non un gatto. Ho detto guarda, non c'è da ridere, perché per me è come una persona di famiglia, quindi mavdicini, persone di famiglia, si ogni kafsh. Mi è morta una persona in famiglia, non un animale. Sembra la finestra, è vero, gente che vorrei appasciata, gente bella l'aria, allegra, amoriosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, tu ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri lecca, fabbrio, sciacca, granita. Tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore t'anzignara classe indo parlare. Sogno sembra alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata dai banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dici ciao con Nataleata, gente casa all'asca, gente... Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Oh! La voglia di amare mi scoppia nel cuore. Per questa puntata ho scelto una ricetta classica dello street food albanese, ma con buona probabilità avrete gustato un buon burek anche in altri paesi balcanici o del Medio Oriente. Alcuni anni fa, preparando una cena per favorire l'incontro e il dialogo fra differenti culture, ho avuto il piacere di imparare a realizzare questo piatto assieme ad una simpatica signora albanese. Questa è la mia versione vegan del burek. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di farina, 500 g di spinaci, 500 g di tofu, del sale e dell'olio extravergine di oliva. Soli si muore. Tu o un'altra è lo stesso. Disponete la farina a fontana su un piano di lavoro, quindi iniziate ad impastarla con dell'acqua tiepida e del sale, lavorando fino ad ottenere una pasta morbida. Formate 10 palline e lasciatele riposare coprendo con un panno per un'ora. Nel frattempo fate lessare gli spinaci. A parte fate cuocere il tofu in acqua leggermente salata per circa 10 minuti. Scolate bene entrambi, avendo cura di strizzare gli spinaci per far fuoriuscire più acqua possibile. Quindi tritateli e uniteli al tofu aggiustando di sale. Aspettare non posso. Soli si muore. Senza un amore. A questo punto stendete ogni pallina di pasta con l'aiuto di un mattarello su un piano di lavoro infarinato. Dovete stendere ottenendo dei dischi molto sottili. Spennellate di olio una teglia da forno e sistemate un disco di sfoglia. Ricopritelo con l'impasto di spinaci e tofu e coprite con un secondo disco di pasta, continuando così fino ad esaurire tutti gli ingredienti, creando vari strati. Versate un filo d'olio extravergine sull'ultimo strato di pasta e infornate a 180 gradi per 45 minuti. Lasciate raffreddare per 20 minuti prima di servire. Blog 24 Zampe del Sole 24 Ore ci informa che a metà maggio si è diffusa la notizia di un divieto del consumo di carne di cane emesso dalle autorità cinesi per fermare il festival di Yulin, una famigerata sagra che si tiene nella città cinese dello Guangxi nella seconda metà di giugno, dove circa 10.000 cani ogni anno vengono macellati e cucinati in strada. Ma la BBC riporta che alcuni venditori con cui ha preso contatto avrebbero smentito l'esistenza di questo divieto. Il consumo di carne di cane nel paese non è vietato, però è vero che l'occasione dello Yulin Festival attira numerosissime critiche da ogni parte del mondo, Cina compresa, per l'opposizione degli attivisti internazionali e cinesi e per il fatto che i cani da macellare sarebbero spesso animali domestici o cani da lavoro rubati ai proprietari. Se da una parte quindi gli attivisti animalisti cantano vittoria, dall'altra gli operatori locali del settore della ristorazione a base di carne canina sono perplessi. Perché la carne di cane dovrebbe essere diversa dalle altre carni? Chiede un noto ristoratore specializzato di Yulin al giornalista della BBC che lo contatta per commentare il presunto bando. Ci sono molti modi in cui ci si sta opponendo al festival di Yulin. La signora Yang Xiaoyun è una donna di 60 anni che acquista i cani dai venditori e che sostiene di avere speso anche $50.000 per acquistare 500 cani. Nella sua carriera di dog rescue ha salvato, dice, intorno ai 4.000 cani. Altri attivisti cinesi fermano i camion prendendoli d'assalto e liberano i cani o li restituiscono ai loro proprietari, rendendo il business della carne di cane sempre meno facile e sempre più rischioso. Perché la vita e la libertà non si comprano. Run around. lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, nosy tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. In questa puntata monografica sui cani terminiamo anche la miniserie di interviste a cura di Eleonora Adorni a Roberto Marchesini, filosofo, etologo, fondatore della scuola di relazione uomo-animale SIWA, un pensatore che ha rivoluzionato la cinofilia e non solo in questo paese. In questa puntata Marchesini ci propone alcune delle sue riflessioni esposte nel libro Il cane secondo me, vi racconto quello che ho imparato dai cani, uscito nel 2016 per i tipi di Sonda. Roberto, come nasce l'idea di questo libro che si potrebbe definire una sorta di biografia vista dagli occhi dei cani che ti hanno accompagnato in quasi 20 anni? Beh, il punto di vista mio che porto avanti in questo libro e che senza dubbio ciò che mi ha spinto a scrivere questo libro è la messa in discussione dell'idea dell'animale come cane da compagnia, cane d'affezione, queste visioni appunto che da una parte strumentalizzano, nel senso di dire un animale da, e dall'altra restringono moltissimo il campo di relazione tra l'essere umano e il cane, e questo secondo me è profondamente sbagliato. Gli animali che vivono con noi e che ci accompagnano per un tratto della nostra vita sono come delle amicizie, degli amori, cioè sono dei momenti che ci influenzano in maniera profonda in diversi modi e sotto diversi aspetti. Un bambino che cresce con un animale non ha semplicemente compagnia e affetto, ma è arricchito da un punto di vista empatico, sotto il profilo dell'immaginario, sotto il profilo della sua costruzione biografica, dei suoi ricordi, della fantasia, del decentramento. Quindi insomma l'idea di animale pet è assolutamente qualcosa da rimettere in discussione. Il cane oggi sembra sempre più una metafora a cui, come tu scrivi, abbiamo tolto ogni facoltà di parola. La domanda sorge allora spontanea: cosa scopriamo se ci mettiamo sulle tracce del cane? Beh, innanzitutto scopriamo che è una storia antichissima, è una storia che è ancora risonante dentro di noi. Lo sbaglio è quello di cercare di trasformare gli animali, e il cane in particolare, ma anche il gatto, in maschere, in metafore, in simboli, e non in entità vive che possono in qualche modo dirci qualcosa perché noi gli diamo facoltà di parola. Nel momento in cui la persona pensa che il proprio cane sia un bambino, è chiaro che il rapporto si perde, perché la persona ritrova solamente le proprie aspettative, le proprie idee, e quindi ha l'effetto specchio. Ad essere scrigno di ricordi, anche un vademecum propedeutico per chi volesse adottare un cane. Quali sono i consigli che ti senti di dare? Innanzitutto sapere che la relazione col cane è una relazione coinvolgente, non è una relazione distaccata. Sapere che se adotti un cane non è come comprare un oggetto, un computer, un telefonino, un televisore, cioè da quel momento in poi casa tua diventa anche casa sua, che il cane è un animale sociale, quindi che ha una socialità collaborativa, quindi ha una socialità molto invadente, molto invasiva. Questa è una cosa bellissima sicuramente, però uno deve essere preparato a questo, e poi è molto importante cercare di capire che tipo di cane si adatta bene alle nostre esigenze, non perché sia un vestito. Il problema è che se noi non siamo, che ne so, portati a fare delle passeggiate in campagna, nei boschi eccetera, non ci possiamo prendere dei cani che invece questo lo desiderano. Quindi il centrale è trovare un punto di incontro. Cosa c'è quindi di sbagliato nella nostra società nel rapporto tra uomo e cane? Ma innanzitutto il fatto che non abbiamo più un rapporto diretto con la natura, e questo ci porta a stare molto in ambienti artificiali, in ambienti innaturali, stiamo molto tempo davanti al computer, col telefonino, non godiamo più una passeggiata all'aria aperta. La vita col cane era questa sostanzialmente, quindi era molto più in linea con la vita rurale piuttosto che con la vita urbana. E poi l'altro aspetto fondamentale è che non collaboriamo più con il cane, cioè noi pensiamo veramente di fare il bene del cane dandogli del comfort. Il cane invece quello che desidera è fare delle cose con noi, la sua socialità è una socialità attiva, una socialità basata sul fare, quindi la migliore attesa che può avere un cane dalla socialità con noi è quella di avere una persona che gli fa fare dell'attività e che quindi lo rende protagonista di un processo di collaborazione con l'essere umano, e questo purtroppo si è molto perduto. Ricordandovi le voci e gli operatori dietro le quinte, che in questa trasmissione sono stati Camilla, la piccola pompiera, Rosy Mussari, Roberta Marino, Arian Chiupi, Eleonora Adorni, Roberto Marchesini, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.